Show! Signor Marchisio! Oh, signor Marchisio, se sei tu, non stai uscendo! Da va! Hola? Chi sei? Tore! Ehi, a Gianmarie! Buonasera! Buonasera, buonasera, e che lo so? Sì, adesso sì. È poc'anzi, perché c'era il macchinino tutto a zero, capito? Come lo stavo pulendo, non me l'ero accorto. Andiamo bene. Stamattina ti ho chiamato, invece era da Bacchigio. Invece non da davanti. Così, in bicicletta o in campagna? E a che ora? Siamo state le 11 meno 5. No, sono sceso in campagna, ma forse ero ancora in campagna. Sì. E poi sono salito qua e però sono salito subito. E stavo girando in bicicletta qua. Alla Coppo, ci ho sceso anche fino a, come si chiama, quei giardini qui davanti alla Coppo, lì dietro di me, erano quasi un'oretta girando. Allora forse eri in bicicletta lì. Io sono sceso da Bacchigio, sono sceso. Ma cazzo, ma mi potevi fare lo squillo, no? Ma di Gio Maria Civili. Ma in macchina sei sceso? Te l'ho fatto lo squillo. Lo squillo al telefono te l'ho fatto. Fatto, va. Ma mi ha suonato, se no me l'avrebbe segnato qua. Cazzo, me l'ha segnato. Anzi, aspetti che sono a guardare, aspetta. Otto, ma non ce l'hanno. Eppure mi ha segnato segreteria, poi mi ha fatto segreteria telefonica. Sinceramente no, perché non ho... Ho guardato anche a mezzogiorno, gli altri pensavo che c'era qualche telefonata di Luca, invece no. No, non c'era chiamata, ma non è che abbia sbagliato il numero. No? Oh, sono Gio Maria Figaro, ci ho segnato. No, ce n'è, se no me l'avrebbe segnato qua, capito? Me lo segna. Ma non mi ha segnato niente, evidentemente, uno prendeva. Si squillava. Poi dopo di un po' mi ha dato segreteria telefonica. Sarei chiesto per volentieri, mi so, cazzo. Ero vicino a quella magazzina che sono questa campagna e lui gira e si gira, allora gli dirò la bicicletta, mi sono fatto quasi un'oretta di pigirende, capito, quella massa all'altra. Sarei chiesto per volentieri, vabbè, sarà per la prossima volta. Vabbè, già. Ogni tanto io ci scendo e andare anda alla prossima e non se la vede già fede ma oh, non la vende nulla fate che è entrato dentro la serra paraedo oi sono uscito subito ha detto oh no ha giudito di sciarami fatta però un caso ci vuoi alzare dentro la serra oh perché non passa aria già lo grigio e dentro della treccia oh è entrato un attimino e è uscito subito burvedo certo perché lì non passa aria che si chiede la rugliria e le fuggite subito la rugliria cazzo vabbè hai detto no rimango fuori cazzo però carbonio si butta ha detto me ne misurano i 40 gradi o 50 gradi 40 ma 50 no vabbè cazzo l'ho preso c'era caldo stamattina si stava bene io sto sceso quindi intanto sarei una sguardata mi sono cazzato subito piace andare a fare le bicicletta, che per la via la bucciacchita mi per la via lo zerepo. Non va di sì, e si può. Lo sai, ma avrebbe fatto piacere, avanti che aveva ammazzato una mezz'oretta un pare, là. Infatti, sì, va. Vuol dire, o esci in bicicletta o farlo in campagna, giusto? Pazienza, sta a bruci, ma giù di più. Sta a parlare in campagna, sta giusto, dico qua, parlo, sta così, lampato. Ma, cosa che c'ha, mezz'ora mi sono fissato in campagna, poi mi sono cazzato giù. Allora, per venire a dire, magazzino, sì, allora ci mi posso un diretto, già ero sempre di rendi. Ma ha fatto bene all'acqua, ai muscoli là. Infatti fa bene, ogni tanto bene là. Io me ne faccio un poco di chilometri con Lugano e mi faccio Manzano, mezzodì, il pomeriggio e notte. Vabbè, so, io mi abituavo, vedi. Prima di sciapura in bicicletta mi devo bidare la pratica vero questa bicicletta, capito? Se no già è riuscito, però non mi azzaggio, ma sì. Devo ancora fare l'allenamento, dai. E tu ce l'ho bene in bicicletta, io conta. Ero giovane, non cazzo ancora quando ha giudicato di camminare in bicicletta. Due domeniche che fa io sono uscito in bicicletta, che hanno fatto sul gaggio forse. Te quando fatto il gaggio, sono stati a tre bicicletta a sì, ero un grido. Quando fatto il gaggio forse, vedatemi. Ah, si avviserà qualche cosa lì, dici? Qualche di... Chi sei lì, Maru, grazie, abbiamo un diretto, allo Marco, faremo fare a vedere come c'è la questione. Mi carica giù per la batteria e aveva anche il lupo. Ma Bacchigio non l'hai sentito, no? Vabbè? Bacchigio stasera non l'hai sentito, no? No, nulla. No, nulla. Si è pazzesco, mi lo aspetto un quarto d'ora, lo aspetto perché mi stavo facendo la luce, ma l'ho riacceso subito, infatti. Mi sono sentito, ho sentito qualcuno di ricordo. No, perché sentivo che c'era... Che cosa? Sono rientrato da fare un giro a Ruggentro. Ho visto che ogni tanto scendeva la ragazza e Gutti chiudeva. Ha detto no, io prima e poi a Eva. Ma non si è andato a vedere anche a Baccato, Baccato? Ah, è andato a vedere Bancarelle stasera, così è stato per farmi una camminata. Ho inteso che Gutti chiudeva, ha detto no, io. E se ne andemmo, se poteva cacciare, cadeva. A Portueva stasera, stanotte, domani, a Portueva domani muro. Chi sa che tu sei punta Bolia va. Sì, adesso vedo, se è buono domani vado a vedere il cane, vado a vedere, questo va lì, se un mese, vado a vedere se non fa zero. Ah, e a Graziano in PMR. Aspetta un attimino, che lo già mi dico che siamo in 27. Ah, ma già dici se è morto, o se è vivo. Ha detto si è rodato Gian Marino. Non attacca, no, non attacca. Cazzo, così, strano è che sia entrato in PMR. Ha detto che è appena rientrato. Adesso si è fatto la camminata, ha detto che non attacca sta gira. Domani gli attacca a Git. Mai niente, si può attaccare, non lascia. Se mi interessa assai. Infatti, così vediamo, va. Quattro gerami di rigavemmo. Vabbè, ognuno fa quello che crede. evidentemente no, non ha più voglia, o va a tagliare o va, perché non, non ho l'affetto, la badiente, il baracchino, allora va di, faccia quello che vuole. Vediamo un po' se c'è Bacchisio, Bacchisio, all'interno della propagazione. È forte, e se no sono verso le 4, se li sentivo, oh, forti li sentivo. Cata, c'è quelli di Coso, di Calabria, Sorrento, Vera, e hanno i voti. E infatti siamo spazzolati, ho sentito anche a Coso, a Dinamite sul 40 erano, Dinamite con Coso, quello di Usimo. Anzi pensavo che fossi il SSB, perché arrivava la forza, a mai chiuderà in banda, invece erano in AM erano. Però io la via in banda, che era questa sul 34, quella là, in Brasile c'era, e Coso è quello di Portogallo. E anche lì, avevo un microfono, ma un computer, li chiamo anche dal computer, li chiamo, quelli di Roma. Anche dal computer li chiami tu? Puoi modulare anche dal computer, puoi modulare. Ma se c'è il microfono. Ma ci vuole il microfono, ci vuole. Ma si può attaccare il microfono al computer? E che si può attaccare? Me lo attacco io, se riesco a trovarlo, no, perché non mi ricordo, ve l'ho messo. Se riesco a trovarlo, lo attacco e leggiamo quelli di Roma. Ma non ci sono solo quelli di Roma, ce ne sono altri. Quando chi è che me l'ha fatto vedere l'altro giorno? Ho visto come mi ha detto come fare, già li ho sentiti, i radioamatori però ho sentito. Anche sulla 27, vai sulla 27 e li sentirò stesso. I CB. Ce n'è uno di Catania. No, di Sorrento, che chi arrivi in volti, è un camionista, sentendo i volti, sempre. Anche stasera mi l'ho sentito qua, l'ho sentito, sono le 4 meno un quarto, e un brumenno a ciavallo, deve essere in mainteso, e mi ha detto buonasera, mi ha detto dalla Sardegna. C'è la propagazione, tu sai dire la propagazione. No, io stavo spazzolando, però sono entrato, non ho chiamato nessuno, quindi stavo ascoltando. Anche infatti ho sentito di nuovo a Coso, ripeto, era in bando il 34 e stavo spazzolando e ho sentito a Dinamite con Uranio, e invece erano in AM erano, e li sentivo in bande laterali io. Non riuscivano disturbi, no? Ma deve essere che era Bonfetti di Coso, Uranio. Ma che era Santiago 8-9, da parecchio non lo sentivo con un segnale del genere, è strano, E dopo mi sono accorto che era in banda, che era in AM. Ma dove modulava Uranio? Allora, da Oslo è Uranio. Dinamite da Coso, da Chiaramonti. Da Chiaramonti già arrivano qua. Io avevo sentito un gandeo, da un bel tempo va, via inteso. E poi non l'ho più inteso, deve essere entrato stasera. Perché il solito modulavo tutti e due insieme, capito? O sul 4 o sul 40, e poi magari andranno in qualche altro canale, ma sono sempre soli, tutti e due soli, facendo controlli, eccetera, eccetera, capito? Eccetera. No, io l'avevo sentito parecchio tempo fa, poi non ho più sentito, deve essere fatto una ragionata. Prima entrava sul 10, sul 5, perché adesso hanno qualche canale tra di loro, capito? E per cui parlano sempre insieme, è raramente che vanno in altri canali, o su 4 o su 40, capito? Andava. E vabbè, quelli che ripiazzi così. E allora. E come facevamo con Mario Mauro, la buon'anima? Tu eravi sempre su 22-23, tutti su, o 5-23. Quando stavo lavorando mi chiamava sempre su 23, all'uscita no, sapeva che io uscivo a quell'ora, allora passava su 23 e mi chiamava, capito, su 5. E ci spostavamo, se eravamo su 5 passavamo sempre su 23. E infatti tutti gli alei, Gio Maria e Mario, sempre su 23 non si muovono mai. Sì. Allora ci facciamo 23, il 5, il 10, il 34, e uia, c'è tante voci, il 15, e un sacco di rughi. Noi sinceramente prima rimanevamo su 5, poi da 5 siamo spostati al 4, dal 4 siamo spostati perché arrivava la propagazione, passiamo al 23, non ci spostiamo più. E abbiamo fatto sempre così. Adesso siamo di nuovo spostati qua e chi si muove da qua? Magari faccialo, se c'è qualcuno magari sugli altri canali, salvo il 10, perché il 10 non mi è mai piaciuto, sul 10 non entro mai. Ma io facevo sul 5, cosa facevo, sul 15, il 23, ne dipendeva, da dove entravano gli altri entravo anch'io. Ma per 5 magari era tutto il canale delle chiamate, però purtroppo c'erano troppe soprammodulazioni, i camionisti eccetera eccetera, e allora ci siamo dovuto spostare per forza. Sto bene su 23, capito? Raramente io magari, se non c'è nessuno magari mi metto a spazzolare, però spazzolo, capito? Non è che mi metto a parlare, ma lasci pure, qualche volta può capitare, magari secondo qui c'è, ci parlo anche sugli altri canali, però non mi dire passare su 10 perché non ci passo. Va bene. E qua da. Non è un canale questo. Ehi ai, ma chi io? C'è solo la propagazione, basta. E infatti, la propagazione c'è. Ehi ai. Ehi ai. È andato a pulire la macchina, va? Perché lui sarà a quest'ora, sì. Come? Non è salito in garage a metterci la macchina, perché scende in campagna sempre. Ah, quindi è con che base. E vai a entrare già, entra là, dai, almeno per salutare già entra. Un po' tardi magari, però già entra, almeno a salutare. Arrivo ti l'hai chiamato all'ultimo occupato, mi ha ripuso. A che ora? Alle 8:15 l'ho chiamato. Addirittura, che ha ripuso? Mi ha ripuso. Tra una cosa e l'altra, ho già raddoppiato l'otto e dieci, 8:15. Non stavamo parlando insieme, che c'è stato poco che ha chiuso subito. E dice che stava aggiustando un'antenna, ma ha detto aspetta 2 minuti che mi dai un controllo, ma ha dato un controllo, poi è entrato a modulare con quell'antenna che ha costruito. Dopo le 8? No, prima delle 8. Ah, prima di chiudere allora, ho capito. Infatti anche ero io, però ha chiuso subito, quando sono entrato dopo è stato poi ha chiuso subito. Infatti, ha avuto un controllo agito, troppo forte stai arrivando, stava modulando bene, boh. Ma è strano quegli apparecchi, boh. È strano con gli apparecchi, a momenti si va bene, a momenti non si sente, non si blocca, boh. Ma deve essere roba 50 anni e mezzo apparecchi, bisogna buttarli adesso. Infatti. No, perché poi con l'apparecchio lì ha scaldato, non sta facendo di radio. È il tuo? Giovanni, infatti già è così, sì. E così vado a buio, sono andato a attaccare un altro apparato e usciva benissimo lo stesso. Ma stavo poco da voi, ne ha provato due o tre mi sembra, e poi magari scrivono bene per un po' dopo si sente più. Come scaldano, e all'arrivo l'apparecchietto nuovo, e si muore di su. Quando scaldano, ma ce l'ha anche questo scalda, però già è grande, per cui... quando lascio almeno un paio d'ore così chiacchierando, lascia come scalda, anche dietro scalda. I finali devono scaldare, se no non va. Lo so, però ne avevo uno che sembrava una stufa, qua mi ricordo un vaporare GTX 5000 della CTE, l'avevo preso dalla GBC, allora c'era il maresciallo, c'era quando ho preso quella pericchia. Tutti la mia era, ragazzi, è poco da Bizanti. C'aveva le valvole del contatto, la stessa valvole. Ma sai come si scaldava? Cazzo, non ti dico niente. Ci avevo messo una ventola sopra, a faccia dentro, e già mi lo raffreddava, ma quella una stufa era tu. La riconosco quelli valvolari. Certo, quelli hanno bisogno di scaldare, che sennò non andavano. Ne avevo un altro e quello l'ho dato pure. Peccato, perché era bello, era veramente bello, cazzo. Tutto a colori era. Solo che ci aveva la commutazione dei numeri dei canali e basta, per quel cimento non l'aveva. Lo Smith ci aveva piccolino, però era un bombò, adesso non mi ci va bene. Infatti, quelli più scaldano e più bene escono, quelli lì. Invece si radio minoridi, va. E tutta PLL sono, ma avevo il 9009, non so se lo conosci. Certo, non l'apparecchio, 60 watt dava quell'apparecchio, un medicanale aveva 6 bande, il 9009. Perché era troppo piccolino e il display è piccolo col frequentimetro e l'ho dato per una misera, appena l'abbiamo messo con Luca subito ci hanno chiamato e ce l'hanno preso, guarda. 130 euro il valvolare. No, il 9009 era PLL, è l'ultimo uscito. Certo, 60 watt dava quello in banda e in AM era 45. Quello voleva messo di più, voleva messo. Tanto per una miseria proprio. Ce n'è ancora, ce n'è uno, l'ho visto anche ieri sera, 9009, cazzo, è piccolino, quella andava bene in macchina, perché se lo potevi mettere in tasca, cazzo, era bella, solo che ne avevo troppo, e allora l'ho pigliato e ho detto, ma sì, e mi sono lasciato il 5005, mi sono lasciato, anche quello è un bel apparecchio, infatti. Ma non ne hai trucchi, è meglio farmi pure subito. L'avevo attaccato al microfono più applicato, quello della... come si chiama? Quel microfono americano rosso con l'insegna con le corna, come si chiama ragazzi? Assati, mi preparo applicato Assati, il rosso. A 80 euro l'avevo pagato, ma lascia come usciva con l'apparecchio. Un mambo. Infatti me lo posso immaginare. Quando sono buoni escono bene. Sono un amore, so. E adesso quello del 5500 è accattassato dentro la scatola e che non tocca più. Certo, è un bel apparecchio, sembra uscire dalla fabbrica. Adesso l'ho messo dentro la busta di originale, perché c'è tutto originale. E ho messo dentro la busta, dentro la scatola, ben conservato, boh, è che non tocca più. Giovanni, lo ascolti? Buonasera, da Tronco Reale. Ma a me sta arrivando Santiago 7 Radio 4. Hai ascoltato l'amico? Attento l'amico di Tronco Reale, avanti. Senz'altro stava in barra mobile perché c'è molto QSB. Da 5 al 4, ah, da 5 a 4, 4 a 5. Come radio buona, dai. E noi siamo al latte dolce, dai. Ok, buonasera. Andate. Va benissimo, riprendi Gianmarino. Un attimo, to. Ehi, chi sei? Eccoci qua, to, scusa, E aspetta Gianmarino che c'è uno che sta chiamando. Avanti. Avanti, chiama. Prego. Avanti. Buonasera, ciao. Bene, buonasera. Va bene. Sì, ok, grazie. E tu a te come ti arriva? A me sta arrivando bene. Santiago 9, Radio 5, perfetta. Sono con un apparecchio omologato, capisco di quelli marcati qui, perché adesso non si possono usare gli altri. Già la sappiamo, no, sa. Vabbè, per carità, tutto bene comunque, sì? Sì, sì, un po' ok. Ok. Carità, tutto, Ma è tutto silenzio da quella volta, tutto silenzio, poca gente, per quel motivo. Infatti, io attivo sì. Per carità. Vabbè, ma adesso tutto a posto hai messo? Solo quello avevo che non andava bene. No, anche se era omologato non valeva più perché usciva un'altra legge e io la concessione avevo fatto quando era già caduta la legge e quindi non ero in regola, diciamo. Adesso c'è l'omologato. Ma adesso non entra con quella. Ah, no, non sono affari mio. Per quello magari prendo un po', informati bene per essere tranquillo pure, capito? Perché certe volte, anche se sono omologati, sembra così, ma qualche disturbo certe volte possono creare, magari non colpa dell'apparecchio nostro, ma sì anche dai televisori o dalle antenne, capito? Infatti sono loro che sono in difetto. E anche prima io disturbavo, capito? Neanche una striscia e dentro il palo di quello che c'è l'antenna marcia deve essere, perché marcia quell'antenna. Disturbatore di televisori. Sta zitto. Vedo me. Marco, qualche volta è capitato a te questo particolare. Buonasera Marco, bianco e tore. Ehi, scusate l'intromissione così. Io sono guardando la TV gran parte della serata, dai, per un saluto non rimango però, dai, che devo fare qualche cosa, ok? Ciao Gio Maria, c'è Torre Squalo e a Nata Linux, ok? Buon proseguimento, io sono alla televisione, ok? Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, neanche io rimango, dai, che anche io sono guardando un po' di TV. Ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti, da. Ok, ciao, allora, sentiamo. Ciao Marco, saluta Liu. Ci sentiamo, vai tu. Ciao Natalie, ciao Marco, statemi bene tutti e due. Ciao a tutti, ciao. Sì, presta oggi, chissà cos'è che... Ma a pranzare sì. No, Dio Maria, ho pranzato, ma... C'è un senso di nausea. Forse mi devo fermare prima, ho mangiato quel qualcosa in più. C'ho quel senso di pienezza che ti disgusta a me, capito? Bisogna fermarsi prima, invece uno magari aggiunge la frutta, il dolce, e quella è la goccia che fa traboccare il vaso, no? E c'ho il senso di pienezza, non dico nausea, ma è fastidioso, dai. Va bene, dai. Buona serata a tutti. Io faccio cuore X e guardo la TV, da. D'accordo, se ce la sommo con Paesantino, busco, faccio sì. Ciao Marco, sentiamo, ciao. Ok, ciao Marco, ci sentiamo. Giulia. Così è. Purtroppo. Hai visto, adesso dimmi tu. Apparecchi omologati. È di subalo. Evidentemente sta per fare delle spurie forti a creare questo patatracca. O era un po' male messo, No, Gio Mario, anche adesso c'ho due filtri anti-CVI attaccati, che non so di quanto attenuano. Capito? Non ne avevo spurie che hanno controllato. Fatti un'antenna come ce l'ho io, a canna da pesca. Sì, la canna da pesca. Poi facciamo perdere, va. Vediamo adesso come va. Perché quello lì era omologato. Eppure, cioè, alla televisione mia non li faccio manco una striscia. Nulla. Capito? C'ho tutto, molti che fanno i rappresentatori di cinesi, rappresentatori di cinesi, e lui si conviene, no? Ma adesso come ce l'ha lui fatto l'impianto? Se entravi da questa qua vuol dire c'aveva l'impianto brutto lui. Adesso io sono con l'apparecchio marcato CX, lo posso usare. Me l'hanno detto anche loro che potevo modulare con l'apparecchio omologato. Infatti, per modulare sì, l'apparecchio omologato. E perché no? Ma quelli nuovi o quelli vecchi? Devo cambiare le antenne. Io me le ho messe, le avevo nuove, perché le ho comprate proprio per il digitale terrestre, tutto a posto. Come mai non si stufa a me? Deve essere che c'è un impianto messo male lui, ecco cos'è, è anche il coso, tra apparecchi, il coso digitale terrestre, deve essere che ce l'ha messo male anche lui, col televisore vecchio, deve essere che anche lui vede male, vede, non ti preoccupare. Si chiama il tecnico e si fa mettere le antenne nuove, e problemi non ve ne, a me non mi devi venire implicati, perché come vengono qua sto denunciando subito, per diffamazione e per molestie. A uno c'è già pronto l'esposto, mi già pronto, non cura l'altro e lo butti in questura, figuriamoci un po'. Adesso li denuncia e gli chiede i danni. Apri il fuoco, Natali. No, Marco, seriamente, se vengono qui a disturbarmi, li denuncio per stalking, li denuncio. E poi mi dimmi, Marco. Ehi, scusate, teniamo l'intromissione, dai. Sto passeggiando per digerire, caspita, il dolce che mi ha rovinato lo stomaco. Ero tranquillo, mi ha mangiato il dolce, capito? Mica Gio Maria ti aveva chiesto una cosa, aspetta, cosa gli hai chiesto Gio Maria? Se era omologato, non so, cosa gli hai chiesto Natalia? No, se stava modulando con l'apparecchio omologato di prima o un altro apparecchio nuovo ha preso. Uno nuovo. Marcato CE. Comunque gli ho rimesso i filtri anti-TVI. Più di quello ne vuoi. C'ho due filtri, uno dietro l'altro, prima dell'antenna. Ehi, poche parole, sì, è nuovo, marcato CE, Gio Maria. Ho capito. speriamo bene, ha detto Natalia. Speriamo bene, là. Sono seccature, cazzo, un macello, però purtroppo. Certe volte già ne possiamo fare anche a meno, invece siamo un gruppo, lo so, io parlo di me. Sì, sai cos'hai? Il giù è la mia cosa di venire anche nel negozio, ecco cos'hai. Magari vanno 30 anni in Bultimani, ero un televisore in Bultimani, e riesci a vedere due cuscini di televisione, è la maniera che fanno, ecco cos'hai. E noi facevamo sapere soltanto che gli controllavo la terra. Gli ho detto gliela facevo a Sesinieri, più ne vuoi. Adesso mi denuncia. Se mi mandano insomma le sto posto mi sono diventato. Ma perché non gli hanno controllato l'impianto a loro? Ah, non ne so io. Qua sono venuti, hanno portato l'analizzatore di stesso e hanno controllato anche tante frequenze, hanno controllato. E non hanno controllato dalla televisione mia, sulla RAI. A chi è di interessa sulla RAI, no? E non rimasi manco una striscia la mia. A uno si disturbava un po' un computer, figurati un po', con 4 watt e più rivisti la TVA, che sono là. Se vengono qua a fare le voci, l'indomani giocando in questura, è vero posto, eh? Ah, tutti dimmi, vai. No, da voi esci da poco, dai. Meglio evitare Natà. No, che mi hanno sequestrato tutto a me. Cos'è il vicino? Viso così non siete. Ma Marco. Come ho già detto io, come loro pagano il canone hanno il diritto di guardare la TV, anche Natalino paga il contributo, ha diritto a modulare, quindi se quelli hanno le antenne fradice se le devono mettere a posto, non è che devono scocciare Natalino. Pensa che Natalino ci ha offerto lui di mettergli le antenne nuove e quei vigliacchi non hanno voluto, capito? L'hanno voluto proprio, gli hanno fatto danno, danneggiarlo, diciamo, in modo legale, no? Vabbè, purtroppo la gente è così, dai, riprendete voi, dai, ciao. La gente è male, poi specialmente quelle persone che lui ha detto, sono da, non sono da, tanto, vabbè, lo vogliamo, dai, sappiamo, li conosciamo. Ok, certo. Avete parlato in due? Avevamo parlato noi, chi è che ha parlato? Natalia. Forse ho parlato io. Ho detto che se no la macchina non me l'hanno fatta bene. Da quando l'ho portata da campagna a qua, la macchina non c'aveva un graffio. Adesso è distrutta, davanti e dietro, il parcheggio, mi deve essere così una cosa. Sono degli incivili, sono gente, cazzo, dell'ultima pagiolata della stessa. Però se vengono qua a fare voci, domani sono andato in questura. Ma Natalini, lo sai com'è lo stalking? È una cosa protratta nel tempo, ma mesi o anni, protratta nel tempo, reiterata, non è così, no? A meno che proprio non ti avvelenino la vita, ma non è che puoi fare denuncia così. Adesso è una cosa molto, che è proprio esasperante. A me mi hanno già esasperato dalla prima volta. Figurati, se sono lì, le sposto pronto. Non sono andato in questura, ma ne era altro modo da fare le sposto. L'ho fatto solo una, va tutti i campi per i pochi mesi. Se sono pure sempre che se vengono torna qua, guai, perché mi faccio dare i nomi e faccio le sposte in questura, poi vediamo. Oggi ho male sul piede di guerra, Natalino. A quanto sento, Tata, non vogliamo che meglio, non vogliamo che meglio Natà. Sai, certe volte bisogna anche fare a me tutte queste cose, perché gente se ne trova di tutte le maniere, e per cui bisogna a volte passare all'arco, ecco, non posso dire altro. Sì, già lo so che ti stai dicendo che mi devi evitare, solo che a me mi hanno messo la multa e mi hanno sequestrato tutto. E adesso però mi vendico. Mi metto l'avvocato, sono presente, sono andato lì con gli altri, va. Vengono a fare le voci sotto a casa mia e dopo vediamo, ma se non ritiro più. Ma quello avranno fatto il loro dovere, penso io, non lo so. Penso, magari sono quegli altri che hanno fatto le voci, così è. Quindi stavano facendo il loro lavoro, gentilissimi, no, io lo sto dicendo a quell'anno. C'è un disegno che gli l'hanno mandato. Di qua che sto dicendo. Marco. Oh, mi avete chiamato che ero alla finestra. Cosa stavi guardando, che stava passando? No, col portatile ero affacciato, si sentono quelli che in TMR sul canale 1 fanno il servizio alla cavalcata, capito? Servizio d'ordine oppure servizio. Così dai, quelli che danno una mano a questi della Proloco e sono sul canale 1, io li sento perché sono vicino, però caspita, quelli sono omologati e si sente perché il segnale, anche se sono vicinissimi, va, sale e scende, non è forte. Infatti, fra di loro si sentono bene, là. Quelli lì, gli apparecchietti, fra di loro, non è che siano molto lontano per qui. Si sentono benissimo. Bene. Tore. Ehi, sono qua. A Natalino, a non disperarci per questi qua. Alla Salibidi. Fai un gruppo, fai. E vai pure. Papà. C'è il pass. No, era peggio da così da Antonio. Questo è il TMR, sul canale 1. Ci sta bene. Lo sentite questo in FM che sta parlando? Allora avevo visto registrare e vedo che già ne bambinacce, così ha fatto la play. Buonasera! Ciao a tutti, buonasera. Ah, Natalia, non la lascia perdere, non dare adito, non cadere nel loro tranello, a tutti i bimbi. 60 euro, ragazzi, ma 60 euro me l'ha soltato proprio. Se obbligano in luce, si ammazzano, lascia perdere, non minacciare nessuno. Se ti registrano, ti denunciano i burro, fa minacce, così hai fatto un play. Ciao a tutti! Dio Claudio, ancora vivo sì. Ma come siete messi con l'altra casa? Vai e vieni un po', per ora. Io ci abito, sono solo qua, sono sceso a prendere roba. Ci sono più a Sassari. Ma lo senti che rimbomba il tuo vuoto qua, ci sono una radio e basta. Tu invece sempre vivo, sempre trasvendi, sempre va vendendo il BMR, non sai mai cosa dica. Ciao Giovanni. A salifare, buonasera comunque. A chiacchierare, almeno si svagano. Natalino che è un po' preoccupato, un po' nervoso stasera. Natalino deve stare calmo, rilassato, per fregarsene. Capito, fregarsene. A tutti dimmi, vivi e lascia vivere. Ma tutta sai. Va bene, dai, ho acceso, mi ha fatto andare 5 minuti questo 4.40, adesso spiego come me ne sto andando. Divertitevela, ci sentiamo alle prossime occasioni. Vai, Dore. Sì, ok, sentiamo, Lascialo scaldare un pochino, che sennò da buio andiamo male. Ah, lo gommolo te l'ho detto, è già la terza volta che lo butto a riparare, questa volta te l'ho detto lo gommolo. Basta, finito. Andiamo. Mi prende Giovanni! Sa cosa dico sto, io meno 5 io chiudo, dai. Che sono un po' d'angolino, dai. Sta venendo la fame, per cui ne approfitto, dai. Grazie a te, ci sentiamo domani se Dio vuole. Buon proprio gli metto, saluto in casa, ciao Claudio, ciao Lattarino e ciao anche a Marco. Marco, riprendi, dai, ascolto e poi chiudo, dai. Eia. Eia, ciao Marisa, buona cena. Io magari mi guardo un pezzo di telegiornale per vedere cosa è successo. Alla fine non siamo andati oggi, alla cavalcata non siamo andati. La mamma si è svegliata tardi e ce la siamo guardata in televisione a Teleg. No, a Videolina ce la siamo guardata. Tanto mi è tutto commenti, commenti. Cioè tu vedi le immagini e parlano sopra e commentano. Vabbè, sempre la solita, io 45 anni che la vedo, un anno no, perché io fino a un anno ho vissuto a Genova, fino a un anno, poi compiuto un anno siamo scesi qua a Sassari, capito? Quindi è 45 anni che la vedo, non ne posso più, guarda. Abba. Si prendo io. Gianmarì, ci sentiamo domani, se Marco, positivi. Era una vita che io prendi, quindi amami se vuoi riposare. Aspetta che abbasso qua. E dimmi Torre squadra, cosa hai detto? Adesso pronto. Ciao Natali, stammi bene. Non arrabbiarti, a potete mi lasciare a piedi gli taglienti. Ok. Ci sentiamo Natali. Marco, avete parlato in due. Hai ragione, no, ti stavo salutando, che anch'io adesso mi guardo un pezzo di telegiornale. Vabbè, Natalino però giustamente ha detto modulare, se quelli c'hanno le antenne fradice che se le mettono a posto, non che devono crocifiggere Natalino, anche lui ha diritto a modulare, però ha diritto a guardare, ma se c'hanno l'impianto messo male a un certo punto provvedano. Comunque stai rilassato Natalino, non mettere il carro davanti ai buoi, ok? Ci sentiamo Claudio, ciao, ci sentiamo. Che sono un po' scombussolato di stomaco, mi ha rovinato il dolce, va. Mi ha proprio sconciato. Metti un dito in bocca e fai quella parte lì. Io. Certo che andai a muovere. Andami da. Io non l'ho voluto dire. Ho pensato, vorrei mettermi due dita in gola e liberarmi. Almeno bello, sono bello libero di stomaco. Ti ho anticipato, ho fatto bene, da. andiamo. Visto. Ascolta, ma Marino non sta più entrando? È senza antenna Marino per il momento, se non gli mettono la vetrata non può attaccare l'antenna perché gli stanno attaccando la vetrata. Ah, ok, da. Va bene, allora ciao Claudio, ciao Natalino, provo a buttare anche la differenziata, va? Sentiamo le prossime, ok? Buona serata a tutti e buon proseguimento. Sì, ok, ciao Marco, ci sentiamo. Ok.